Capitolo 25. Poi Abramo prese un'altra moglie di nome Chetura. Questa gli partorì Zimran, Joksan, Medan, Madian, Isbak e Suak. Joksan generò Seba e Dedan. I figli di Dedan furono gli Assurim, i Letusim e i Leummim. E i figli di Madian furono Efa, Efor, Enoch, Abida ed Elda. Tutti questi furono i figli di Chetura. Abramo diede tutto ciò che possedeva a Isacco, ma ai figli delle sue concubine fece dei doni, e mentre era ancora in vita, li mandò lontano da suo figlio Isacco, verso Levante, nella terra d'Oriente. La durata della vita di Abramo fu di 175 anni. Poi Abramo spirò in prospera vecchiaia, attempato e sazio di giorni, e fu riunito al suo popolo. Isacco e Ismaele, suoi figli, lo seppellirono nella grotta di Macpela, nel campo di Efron, figlio di Soar, l'ittita, di fronte a Mamre, campo che Abramo aveva comprato dai figli di Chet. Lì furono sepolti Abramo e sua moglie Sara. Dopo la morte d'Abramo, Dio benedisse suo figlio Isacco, e Isacco abitò presso il pozzo di Lacairoi. Or questi sono i discendenti di Ismaele, figlio d'Abramo, che Agar, l'egiziana, serva di Sara, aveva partorito ad Abramo. Questi sono i nomi dei figli di Ismaele, secondo le loro generazioni. Nebaiot, il primogenito di Ismaele, poi Kedar, Adbeel, Mibsam, Misma, Duma, Massa, Adad, Tema, Ietur, Nafis e Kedma. Questi sono i figli di Ismaele e questi i loro nomi, secondo i loro villaggi e i loro accampamenti. Furono i 12 capi dei loro popoli. Gli anni della vita di Ismaele furono 137, poi morì e fu riunito al suo popolo. I suoi figli abitarono da Avila fino a Sur, che è di fronte all'Egitto, andando verso la Siria. Egli si era stabilito di fronte a tutti i suoi fratelli. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio di Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padaram, e sorella di Labano, l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore l'esaudì e Rebecca, sua moglie, concepì. I bambini si urtavano nel suo grembo ed ella disse: «Se così è, perché vivo?» E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: «Due nazioni sono nel tuo grembo e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore». Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso e peloso, come un mantello di pelo. Così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca li partorì. I due bambini crebbero. Esaù divenne un esperto cacciatore, un uomo di campagna, e Giacobbe un uomo tranquillo che se ne stava nelle tende. Isacco amava Esaù, perché la cacciagione era di suo gusto. Rebecca invece amava Giacobbe. Or mentre Giacobbe faceva cuocere una minestra, Esaù sopraggiunse dai campi tutto stanco. Esaù disse a Giacobbe: «Dammi per favore da mangiare un po' di questa minestra rossa, perché sono stanco». Perciò fu chiamato Edom. Giacobbe gli rispose: «Vendimi prima di tutto la tua primogenitura». Esaù disse: «Ecco, io sto morendo. A che mi serve la primogenitura?» Giacobbe disse: «Prima giuramelo». Esaù glielo giurò e vendette la sua primogenitura a Giacobbe. Allora Giacobbe diede a Esaù del pane e della minestra di lenticchie, Egli mangiò e bevve, poi si alzò e se ne andò. Fu in questo modo che Esaù disprezzò la primogenitura.